prima di ragionare sui blog nostri, una cosa che non abbiamo detto riguardo alla, due cose che non abbiamo detto riguardo a ciò che è comunicazione pubblica, riguarda innanzitutto due strumenti che hanno un certo valore ormai quasi storico, che sono quello della newsletter e quello del e quello dei forum, forme di dialogo. Allora, sono tra di loro profondamente diverse, ma ascoltano lo stesso input, in un senso più autoritario, quello della newsletter. Io ti propongo di iscriverti a un archivio, un database, e a tempi prestabili tu riceverai delle informazioni da me, ma non si tratta di informazioni che l'utente finale può scegliere, sono informazioni che a meno non siano poi in un mondo molto vasto, per cui si trovare una newsletter di sport piuttosto che di economia, sono decise da chi lo mette dentro la casella di posta elettronica di chi la riceve. Dall'altra parte, i forum hanno invece la possibilità di rappresentare argomenti di discussione, anche questi però gestiti e scelti da chi offre questo possibilità. Il metodo è identico, quindi, ma è profondamente diverso il linguaggio, e quindi è profondamente diverso anche il modo di scriverti. Voi siete iscritti a qualche newsletter? Sì. Prego, adesso per fare da anni, giusto? Però lì si tratta di un file di bandi, non è che sia... Sì, no, un file di bandi, quindi magari con una prospettore... Ok. Altri che sono iscritti a newsletter? Quello di Bugonale. Quello di? Bugonale. Ecco. Che si sente sulle notizie che ti interessano, che non è niente, perché sono tutte le notizie che riguardano l'economia, che arriva via email. C'è una parte del Corriere della Sera che si chiama mandano le notizie ai giornali del mondo. Ok, come trovate voi le newsletter? Le trovate quanto lunghi i contenuti che vi vengono forniti? Sono lunghi, sono brevi, sono... Esattamente, sono degli after ormai newsletter, hanno ormai perso la funzione iniziale, chiamarle già newsletter era ormai quasi un errore. Quando le newsletter nacquero, ormai sembra assurdo parlare al passato remoto, ma qui è, e andiamo indietro di una ventina d'anni, le newsletter erano dei veri e propri libretti quasi, perché c'era una rete molto, erano molto scritti. Era qualcosa che aveva, non aveva il dono della sintesi, ma aveva l'obiettivo di tenere informato il più possibile, quindi tenere agganciato il più possibile l'utente che si iscriveva al mondo al quale aveva dato, diciamo, la sua fiducia. Oggi le newsletter sono esclusivamente degli abstract con degli URL di questo, non esistono praticamente più, non sapevo di questo, addirittura dei concorsi che diventano quindi un evento, quindi diventano una sorta di appunto, di memento, cioè ricordati che ci sono anche queste cose. Questo avviene sempre nella inevitabile accelerazione, diciamo, della inevitabile accelerazione dei mezzi di comunicazione, quindi anche di internet. Internet è uno strumento che si sta ponendo come un acceleratore di notizie, non ci sono gli acceleratori di particelle, ci sono anche gli acceleratori di notizie. Prima avveniva esclusivamente attraverso la logica dell'online, no? E se avendo il vantaggio di essere online io ho l'opportunità di dare le notizie prima. Adesso questo non basta più, lo è a pieno titolo su tutti gli aspetti, lo è dagli aggiornamenti che ormai non viaggiano più sulla possibilità di essere, come posso dire, più veloci degli altri quando tu mi vieni a visitare o mi vieni a trovare. Lo scopri attraverso i feed dell'RSS che ti danno l'alert che tu sei più avanti di un altro sito e hai la notizia prima. Lo sono con i podcast, cioè io non ho tempo di vedere le cose in quel momento, ma posso recuperare tempo andando sul sito e scaricandomi il file del programma, del documento o dell'audio che mi interessa. E lo è anche negli altri strumenti di comunicazione come la newsletter che era nata come qualcosa di, diciamo, di approfondimento tranquillo. Ogni settimana, ogni 15 giorni ti mando qualcosa a casa che ti ricorda quello che è. Adesso diventa uno strumento per lanciare una serie di segnali che a loro volta ti danno accesso a nuove situazioni, a nuove soluzioni, a nuove notizie. Questo cosa fa? Questo provoca una perdita di potere, diciamo così, non di credibilità, ma di attrattività da parte dei forum. I forum, che erano anche questi nati per creare una sorta di rapporto diretto tra un mondo, che è quello di chi gestisce un sito o qualcosa, e l'utente, alla fine si sono ritrovati a diventare esclusivamente o quasi o delle community per persone addette a quel mondo, nel senso che o perché sono esperti di quella particolare materia o perché fanno gruppo proprio da un punto di vista fisico, o delle vere e proprie forme di sondaggio volante che si sono rapidamente fatte strada. Voi vedete che in qualsiasi sito c'è sempre la possibilità, soprattutto di un giornale, c'è sempre la possibilità di dire qualcosa. Vedete qua su quello della stampa c'è l'allarme povertà, era qua secondo te l'Istat vota i risultati. Se io voto non lo so, votiamo qua e guardiamo i risultati e mi dai i risultati, che credibilità statistica? Nessuna, tant'è vero che loro sotto lo scrivono. L'Istat Poll online della stampa non hanno un valore statistico, si tratta di rilevazioni aperte a tutti, non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno quindi l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. Ma queste due righe, che sono a fondo pagina, diciamo, non giustificano a volte poi il fatto che il giornale il giorno dopo non faccia un grande articolo dicendo l'Italia è sempre più povera e anche i nostri lettori sul web hanno detto che, senza dire magari hanno votato 3 persone o ne hanno votate o 50 volte ce l'hanno messo loro da dentro. Ma questo non è per sminuire il valore delle cose, è per darvi la sensazione di come sia facile adesso proviamo la cosa che sarebbe fatale, solitamente non si dovrebbe poter rivotare, ma se per disgrazia mi danno la possibilità di rivotare, figuriamoci. Votiamo un'altra cosa. E mi ha dato la possibilità di rivotare. Basta questo, stiamo parlando di un tipo serio. Ma se noi andiamo, non lo so, vediamo se cosa c'è la gestione pubblica. Non posso. Eh? No, comunque siamo. Però era un fatto per dirvi, la stampa, che è un giornale autorevole, usa questo metodo. Allora, vediamo cosa c'è la gestione pubblica, cosa si può votare. Non ti fanno votare. Non è ancora arrivato quello che ti ha proposto. Ah, sondaggio qua. C'è sempre qualcosa su cui votare. E qua c'è ancora il sondaggio sui fatti della politica. Ecco qua. Il computer contiene tracce di tutti i siti per adulti risultati. Ma pure a te usci. Eh? Pure al mio usci. Ah, quando è uscito perché? Pure te uscito, ma perché è uscito? Sono qua. Ah, interessante. Siti per adulti risultati 179, vedi? Cosa stava? No, il problema non è che stava questo computer, quindi ovviamente dei documenti. Ma poi sono anche i siti illegali risultati. Ma molto bene, dobbiamo vedere quali illegali sono. Molto bene. Addirittura. Addirittura. Vabbè. Molto bene. Ok. E qua il sondaggio, guardate l'avvertenza anche qui, i sondaggi online di Repubblica.it non hanno ovviamente un valore statistico, si tratta di relazioni aperte a tutti, non basate, eccetera, eccetera. Se voi avete letto Repubblica nell'ultima settimana, praticamente tutti i giorni continuano a dire che continuano a scrivere a Repubblica le persone con la classifica addirittura messa su e dicendo quali sarebbero i primi tre, c'era ieri, c'era l'altro ieri, presumo ci sia oggi. Quali sono tra questi 10 punti, 3 punti più votati su Repubblica.it, dimenticandosi di dire sul giornale che è una cosa che si possono tranquillamente, che lo stesso Tirani si può mettere lì sul computer e votare 80.000 volte lo stesso item e far vedere che quello è più importante. Questo non lo dico per farvi perdere fiducia sui mezzi di comunicazione, ma per dirvi come mancando delle regole precise su questo, c'è davvero forte la possibilità di combinare dei guai o comunque di andare a influire anche sulle decisioni e sulle cose. Facciamo un esempio sulle elezioni amministrative che sono in corso. Io fra 2 ore, e quindi a urne aperte, avrò i sondaggi degli assessori, perché quelli che li fanno me li danno per ragioni politiche, non per altro. Ora, vi sembra logico questo? Non è affatto logico, perché io potrei condizionare o muovere delle, se non dei voti, comunque a allertare o sistemare delle situazioni varie e locali dove ci sono. E questo avviene in tutte le elezioni, avviene perché per preparare gli exit poll delle 3 del pomeriggio, quando alle 3 un minuto si dice in questa città è avanti questo piuttosto che quest'altro, bisogna preparare tutta una serie di modelli statistici e li devi fare sulla base del voto che viene preparato di chi ha votato soprattutto la domenica piuttosto che il lunedì, la quota di quelli che fanno rivotare lunedì. Voi sapete come funzionano, forse a qualcuno di voi è capitato, quando uscite dal seggio vi viene chiesto di rivotare in una sorta di box privato, dice può rivotare, può rifare il voto che ha fatto, in modo da non ledere il diritto alla privacy. Se uno accetta, il campione statistico poi fa questo, così come avviene per un'altra serie di sondaggi in tempo quasi reale. Ci sono nei palmari come questo ce l'hanno un campione tipo quello dell'Auditel, parte una richiesta via mail e dice dammi la tua opinione sul fatto che Chavez abbia spento la televisione in Venezuela. Uno risponde sul palmare, vengono elaborati dati a campione statistico, praticamente come quelli di un sondaggio CAPI, cioè di un sondaggio che dura con le 1000 telefonate, e poi vengono elaborati in un tempo molto più rapido, in 2 ore si hanno le risposte. Quindi io potrei a questo campione chiedere adesso se ha già votato, che cosa ha votato e sapere già che cosa succederà. Quindi con questo preparare tutte le mie dichiarazioni, tutti i miei interventi, tutte le mie scene di giubilo o giustificazioni a seconda di come è andato il voto. In realtà quello che poi alla fine, cosa voglio dire con questo? Che quello che alla fine appare è condizionato fortemente da quello che è stato preparato prima e che grazie alle tecnologie viene preparato in modo molto più rapido, fino a porre il problema se sia legale fare questo. E su molto ovviamente la risposta è fin troppo scontata, perché in mano a poche persone c'è il controllo di queste situazioni e quindi apre tutta una serie di interrogativi che non sono soltanto sul fatto che le tecnologie ti insegnano e ti aiutano a sapere, ma le tecnologie ti possono anche aiutare a intervenire su alcune cose e questo ovviamente potrebbe rappresentare anche un tema forte per quello che riguarda le legalità. Eravamo arrivati ai sondaggi parlando delle newsletter e quindi dei forum, proprio per dire come il forum a questo punto sia sintetizzato nel voto del sondaggio. È difficile trovare un forum nel cui uno mette l'argomento, parla e dice. Automaticamente la fretta che internet ci ha imposto ti porta a mettere subito il nostro voto come il nostro commento, come il nostro post, ed è quello che poi succede nei blog che, come avrete visto in quelli che avete aperto voi, dubito che poi alla fine, anche per una questione di tempi, dubito che vi siano venuti a vedere persone autonomamente, o perché avete messo in giro voi la voce o perché tra di voi vi siete scambiate cose, ma perché non perché siate sconosciuti, proprio perché l'offerta su internet è enorme, non avete la possibilità o la tecnica ancora per poter apparire sempre in alto nei motori di ricerca, come è facile fare anche lì, anche pagando, anche su questo è una cosa triste. Voi sapete che Google, che è il motore di ricerca forse più famoso al mondo, ha dei servizi a pagamento che ti permettono di apparire sempre nella prima pagina delle ricerche. Se tu digiti la parola sole e tu hai un sito con la parola sole, attraverso delle parole chiave che sono inserite nell'home page, l'algoritmo te le riconosce e ti fa apparire nelle prime 10 pagine. Dal punto di vista pubblicitario, per molti di questi siti o di questi personaggi che riescono a scoprire questi metodi, è un modo per essere più cliccati facilmente, visto che la parola sole è banale, che essere nella 150esima pagina del motore di ricerca. Quindi anche tutti questi servizi che sono all'apparenza gratuiti, perché poi sono gratuiti, in realtà nascondono tutta una serie di logiche a pagamento che permettono di essere più o meno visibili, quindi essere più o meno vincenti da questo punto di vista qui. I forum come tali non esistono quindi più, così come erano nati. Qualcuno di voi va assolutamente a scrivere sui forum? Per una ragione oggettiva, perché si tratta di... hanno liberato l'elevatore. ti dicevo, quindi adesso sto vedendo come davano quei giornali tardi la notizia di questa liberazione, però qui sono andati a festeggiare e li hanno arrestati tutti perché erano però erano. Ecco, vedete cosa succede qua, che purtroppo qui che dovrebbe essere la prima notizia non lo è perché non c'è la redazione, qua c'è uno che magari va a lavorare a mezzogiorno, in automatico mettono il giornale nuovo e basta, per cui a parte che i lettori intervistano Mario Zita, che questo è fondamentale anche per la parte di Mario Zita, non c'è la notizia che doveva apparire subito da questo punto di vista. Molto bella questa vulcana, questo. Allora, dividetevi mentalmente, quindi quando si parla di mezzi interattivi, il discorso di come comunque tutto è basato sulla sintesi e sulla rapidità sempre di più, ma lo è anche in funzione di nuovi servizi che ne hanno uccisi altri. Ad esempio, i forum non esistono praticamente più, nonostante facciano parte dei libri di testo su internet, voi trovate dei capitoli sui forum, ma se io vi potrei parlare dei forum per 10 ore, ma non li trovate più, sono superati dall'uso stesso del mezzo. Mentre invece sui sondaggi online si trova ancora molto poco, perché si stanno affinando oggi le tecniche, ma soprattutto ci si rende conto che sono strumenti manipolabili, estremamente manipolabili, e lo sono molto di più rispetto al forum. Perché? Perché nel forum puoi manipolare una risposta, un tuo parere, puoi mettere 10 volte il tuo parere, però devi scrivere 10 volte un testo, qua basta un piccolo programmino che ti continua a far votare ogni 2 minuti sì, ogni 30 secondi sì a una domanda, e tu cambi radicalmente il voto su un tema o meno, e questo poi può portare comportamento, giudizi o pregiudizi su una cosa. Quindi non possono essere quelle due righe che sono scritte sotto, naturalmente questi sono soltanto sondaggi che non hanno alcun valore statistico, e poi essere ripresi dai mezzi di comunicazione come dati veri, no? Mi ricordo che fanno una cosa che a noi ha creato un po' di problemi, c'era un sito che si chiama contribuenti.it che 10 giorni fa sono uscito dicendo che in Italia le auto blu erano 500.000. Ah, 500.000 auto blu su un parco massimo di 8 milioni, vuol dire che erano contate le macchine di colore blu, probabilmente. Siamo andati a vedere le auto blu intese nel loro complesso, comprese le macchine della polizia piuttosto che quelle dei vigili del fuoco, in tutto sono 200.000 in Italia, e già quello. Ma le auto blu intese come auto di servizio, eccetera, in Italia sono 3.000. Allora, quando questo sito contribuenti.it, che non ha alcun valore, non si sa nemmeno da chi sia fatto, è cosa drammatica, ha dato la notizia che erano 500.000 di auto blu, i giornali, ma giornali come il Corriere, la Stampa, il Messaggero, hanno fatto 2 pagine di giornale quel giorno, perché è molto in moda anche il discorso di passare la politica. Ecco, voi vedete anche il simbolo nobile che li accompagna. Questi qua sono riusciti ad avere una pubblicità pazzesca, tra l'altro lo sportello del contribuente è marchio registrato, vedete, cioè ci sono delle cose, questa rubrica sulle cartelle fatte di Nino Buonocore che deve essere imperdibile. Questi signori sono riusciti ad avere pagine e pagine sui giornali più seri, semplicemente perché avevano dato un dato talmente pazzesco che faceva notizia. Quando abbiamo spiegato il giorno dopo che erano 3.000, ufficialmente è uscito tanto così sui giornali. Ormai era 500.000, per cui sono automaticamente 500.000. Questo per dirvi come è facilissimo manipolare i numeri e le statistiche, basta essere i primi a metterle a disposizione. Ora, voglio dire, nulla contro il sito contribuenti.it, ma credo si commenti da solo quello che quello di cui si occupa. Così come un altro sito che fa dei numeri una sua forza, che è il telefono blu, voi ogni tanto sentite addirittura ai telegiornali il fatto che vi dicano ci sono, la prossima settimana saranno sulle strade 6 milioni di macchine. Oppure diranno, e soprattutto andranno 3 milioni al mare, 2 in montagna e 1 in lago. Lo dice telefono blu, come se fosse una fonte autorevole il fatto che dica come si muovono gli italiani, senza con questo avere una vera e propria scienza statistica delle cose, ma semplicemente sono dei dati che vengono così pensati e quindi messi online. Però vedete, sono siti comunque che hanno una loro grande quantità di informazioni. Ok. Quindi quando ci si ritrova davanti, poi c'è una cosa che è molto interessante, c'è un sito che è un sito pubblico, diciamo, che si chiama, adesso vediamo se mi viene in mente. Non mi viene in mente esattamente perché era un po' lungo. Sondaggi politico elettorale. Questo qua è un sito che viene fatto da noi, che adesso è chiuso, in questi giorni, in queste ore era chiuso perché non potevano esserci sondaggi politico elettorali nel periodo di, vedete, sospeso l'applicazione articolo 8. Ma qua i sondaggi politico elettorali vengono pubblicati adesso da domani, diciamo, finito, no, da domani ci sono ancora i ballottaggi, dal 12 giugno, voi su questo sito potete trovare tutti i sondaggi politico elettorali o politici e basta, che vengono diramati poi dalle società accreditate, che sono poi quelli che vengono ripresi dai giornali, però per fare un panel di confronto ve li potreste leggere da soli e già attraverso questi vi potete fare un'idea delle cose, così come se voi andate al sito del Ministero dell'Interno voi trovate già in tempo reale, a partire dalle 3, tutti i dati senza bisogno di dover aspettare o essere collegati alla televisione, eccetera. Per dirvi come, dal punto di vista di dati numerici, eccetera, c'è la possibilità di farsi da soli, anche in questo caso, le informazioni. Ok? Qua ci sono le affluenze alle urne, voi avete la possibilità di vedere comunali e provinciali, poi all'interno delle comunali potete scegliere la vostra città e vedere quanto si è votato nella giornata di ieri e poi ci sarà quello di oggi, definitivo. Vedete che la città che ha votato di più al nord è Biella, Piemonte Biella, in Lombardia era Lodi e quella che ha votato meno era Monza e poi via tutta Italia fino probabilmente al sud dove si vota un pochettino meno, però nemmeno tanto meno, comunque sempre con tutti i dati a parte Nuoro sopra il 50%. Nuoro doveva liberare prima, comunque tutta questa quantità di dati sono poi esattamente i dati che ritrovate il giorno dopo sui giornali o per dirvi come ormai diventa il mezzo telematico diventa qualcosa di estremamente più diretto e più rapido. Tutto questo fa capire il discorso sui sondaggi, ritorno all'inizio del ragionamento, è sulla questo qua. Ci sono sondaggi su ogni cosa che erano alla fine un fotosondaggio addirittura, non sapevo che ci fosse altro cosa. Avete mai partecipato in fotosondaggi? Valentina, ma quale? Beh, spero bene che non abbia superato. Ma c'era una marea enorme in fotosondaggi. Chi è il protagonista del tuo sogno cattolico? Voglio vedere i risultati. Non ha vinto lei. Beh, però è il secondo, Ma perché Bruno Vespa è stato lì tutta la sera a votarsi probabilmente. Beh, però è vero, c'è tutto sogno, è tutto incubi o sogni di qualche tipo. Ed è stato lui a votarsi, sicuramente. Ma vabbè. Gli incubi. Parte da tutto. Il studio di casa non mi sembra una notizia. Va bene. Ad esempio, quello che è diventato un fenomeno, un po' una nuova forma di forum è YouTube. Voi avete, penso, già, così come l'è diventato anche Second Life a sua volta, cioè sono mondi paralleli dove... Allora, qua siamo a livello di circa... YouTube ha una... che ormai è esponenziale, ogni giorno vengono inseriti su YouTube circa 200.000 video e praticamente non c'è confine, così come ci sono 15.000 iscrizioni al giorno soltanto in Europa Second Life, cioè sono quelle situazioni che da una parte diventano moda, dall'altra parte scavalcano completamente il rapporto. Cambiano i rapporti tra utente e fornitore di servizio. Questo punto di YouTube è nato come una sorta di database, è diventato qualcosa non è più sfuggito di mano, cioè proprietario, però è diventato una formula totalmente autonoma di invio e di pubblicazione di materiali. Tra l'altro sono materiali che soltanto in parte vengono poi cifrati, perché l'autocoscienza anche che poi condisce e mette online questi video è più alta a volte delle stesse forme di censura. Al di là di questo, questo tema anche qui che ha avuto la sua serietà negli Stati Uniti dove è nata, adesso che YouTube è svolto definitivamente da 6 anni negli altri paesi, si sarà da verificare se sono ancora identico, perché negli Stati Uniti c'è una forma comunque di autocontrollo maggiore, perché si sa che è molto più facile poi arrivare alla fonte non sia inserito un determinato materiale, che non si può riflettere dalla produzione, quindi non si può andare in più. Lo possiamo considerare in fondo una forma di forum, perché contiene tutto ciò di cui ormai la rapidità di internet ha bisogno. E cioè contiene di per sé il soggetto del discorso, che è filmato, e poi ha due elementi di giudizio, diciamo, complessivo e finale, che sono quante volte è stato scaricato e che giudizio estetico se ne dà. Questo già di per sé comunicazione, non c'è bisogno di aggiungere altro, non c'è da scrivere qualcosa in più o meno. Io ho scaricato tante volte, vuol dire che c'è stato un passaparola, c'è stato un interesse su quel video tale, per cui siamo nella possibilità di considerare, per esempio, questo signore qua che racconta come fa queste copie, è stato visto 207.000 volte. Ora, è una cosa particolarmente divertente, è una cosa particolarmente utile e dà un giudizio molto alto. Quindi questo spinge automaticamente il navigatore di YouTube ad andare ancora su per vedere ancora di più come stanno. Questo sostituisce quindi in un certo senso il forum, perché permette poi di creare una sua, secondo anche qui si crea una community, si crea una, c'è la possibilità di farsi una sorta di archivio digitale, come per quello delle canzoni, del file musicale, si può fare una propria playlist, si possono avere, si può avere se non una newsletter, secondo una video letter, chiamiamola così, si possono avvertire quando ci sono dei video che entrano nuovi su un determinato argomento, si viene a creare, cioè un rapporto esclusivamente sulla messa in onda del materiale, sulla messa online del materiale. Non esistono più le parole, se ci fate caso, paradossalmente. E questo è significativo proprio per dire come YouTube, che è in pratica nata in modo industriale 3-4 anni fa, adesso si ritrova a essere uno strumento. L'ho visto su YouTube, beh, mettilo su YouTube, lo scarichi da YouTube, è diventato una sorta di conto ufficiale di tutto ciò che dico. Mi pare che questo valga anche per voi, quando YouTube lo considerate una fonte primaria, non lo considerate un qualcosa, perché lo considerate fonte primaria? Esclusivamente perché c'è chi si mette su i propri video, quindi più diretto di così, come ci può essere? Voi avete mai messo i vostri video su YouTube? Ma quei numeri? Sì, di staccare. Ma con scritto Trento in lettere o in numeri? In lettere. Cosa non c'è? Questo l'avete messo su voi? Sì. Questo qui? Ce l'hanno anche visto 2520 volte. Fate qui perché sul giornale locale. Ma ci sei anche tu? C'era quella sera, però si vedo. Non vergognarti. No. Non mi temo vergogna, non ho fatto tutta legge, quindi. C'era qua? Più padre che mi peggio. Beh, siete stati visti i 2.500. E ci sono 11 commenti. Infatti, sì. Non mi vedo lui. avete messo una ragazzina di 12 anni, ma questo non è una ragazzina. Questa qua, ciao, sono Marta, 12 anni, ah, ecco, è tra amici. Tu tra amici? È tra amici, è uno che si è fatto un nuovo account. Vabbè. Vabbè, andiamo invece a vedere la tua, com'era? Ma poi ho visto che c'è un'altra volta che abbiamo fatto per noi, che è il cliente di 1900, però ma ci vorrà una chiave diversa, eh? No, deve fare posta russa. Cosa? Posta russa. Posta? Russa. Detto questo. Teta. Così? Sì. Che è una sombrata praticamente. Sono due. Questo? Sì. Questo l'hai fatto tu? Abbiamo fatto con amici. Non so, sì. Prenditi la responsabilità. No. Non si sente qua. Vorrei un po' montato un po'. Cioè, un po' scuro, sì. Sì. Un po' molto. Praticamente c'è la scena di... Cioè, qua avete ripreso il film? Sì, e poi... Non so se sono volentieri, siete stati vinti 1100 volte, basta, vincono 30, no? Quello sarebbe per il posto. È il poliziotto e la compagna da anni fa. Ma non avete trovato una che facesse per i soldi? E poi lui è pure l'altro diplomato. Poi arriva e io sono stato praticamente la prima reanza. Vabbè, lo lasciamo in sottofondo. Quando appari come Hannibal facciano sapere. Comunque sì. Questo è la dimostrazione di come è cambiato profondamente il possiamo definirlo il filtro, quella sorta di passaggio mediano o mediato che è dato da chi riceve i materiali e poi li mette a disposizione. Qua automaticamente ci si fa il proprio giornale, ci si fa il proprio blog, ci si mettono qui i propri video, si fanno i propri sondaggi, si fanno da soli le opinioni. A questo punto viene meno tutto il linguaggio mediato, quindi cambia profondamente anche il modo con cui il linguaggio tradizionale, giornalistico, anche deve apparire sul web. Se io rischio di avere video che entrano da soli, sto parlando di un giornale online o comunque di un mezzo di comunicazione tradizionale, se io rischio di avere chi si mette da solo i video, chi si fa da solo il suo giornale, chi vota con un sondaggio online rapido, per cui in questo modo non accetta più il fatto dell'interpretazione, ma è a sua volta protagonista dell'informazione stessa, diventa appunto... Ecco, mi sono perso... Adesso si rivede? Questo è sempre già riposto, ha avuto un successo per noi. E questo è diplomato pure. Eccolo qua. La maschera con cosa si fa? E la maschera di... No, ma con cosa l'avete costruita la maschera? Mi fermerei qui perché mi sembra eccessivo farti rovinarti la reputazione. No, guarda, la mia reputazione. Eh? Sì, la mia reputazione. Okay. Però tornando a un punto di vista, diciamo, tra virgolette scientifico, vi rendete conto di come ci troviamo davanti a una situazione completamente nuova di quello che riguarda i linguaggi? Io come posso scusate. Allora, quindi chiudendo questa parte, poi l'ultima ora dedichiamo a una cosa diversa, i vostri blog vedremo di vederli poi se mai l'ultima lezione, sono rimasti indietro di un po' di cose da dire. Quello che riguarda il linguaggio mediato, quindi, è sempre di più, è sempre in modo involuto più che voluto, condizionato da quelli che sono gli atteggiamenti e i comportamenti dei singoli nei confronti della rete. Cioè, chiaramente ormai c'è una autonomia su internet tale che chi fa informazione attraverso il mezzo web si ritrova ad essere superato praticamente in tempo reale. Cioè, se io oggi vado su YouTube, scarico dal sito della RAI, mi scarico la puntata di Report di ieri sera che qualcuno di voi forse avrà visto, e la metto sul mio blog, ci faccio una polemica sulle spese e gli accordi dell'ENI, e scopro che c'è scritto adesso sulle agenzie che l'ENI correva a Capanelli, eccetera, mi vado ad avere, esclusivamente stando davanti a un computer, ho la possibilità di fare più informazione rispetto a quella che un giornale farà domani, ho tutti i mezzi, semplicemente se sono un po' veloce, un minimo di conoscenze, non è meno tecniche, di conoscenze di base per quello che riguarda l'utilizzo dei file, ho la possibilità di cambiare il ritmo delle informazioni, quindi cambiando il ritmo delle informazioni inevitabilmente cambiare il linguaggio, perché avendo a disposizione una serie enorme di contributi, che siano filmati, che siano documenti, che siano notizie di agenzie, eccetera, io non ho bisogno di aggiungere praticamente niente, ed è questo che poi è il successo di mondi come quello di YouTube o di mondi come quello dei blog, anche qui che aumentano ogni giorno decine di migliaia, proprio perché è molto facile farlo, è molto semplice dire la propria opinione, mettere la propria bandierina su una situazione. Cosa resta allora ai siti dei giornali online o ai siti tradizionali di informazione? Resta quegli strumenti o multimediali molto forti, oppure tradizionali da rivedere, tipo appunto quelli che erano le newsletter che dicevamo all'inizio. Una newsletter banale che arriva una volta alla settimana è paradossalmente una sconfitta. Addirittura una volta c'era il newsletter quindicinale, ovviamente non lo facciamo nessuno. Già una newsletter settimanale di per sé è sbagliata. Dovrebbe essere messa a disposizione dell'utente una serie di servizi per cui puoi avere la newsletter flash ogni 3 ore, o la newsletter, adesso sto parlando ovviamente, dietro ci deve essere tutto un lavoro redazionale enorme, però l'idea che io debba aspettare una settimana per avere informazioni che altrimenti tanto con un minimo di pazienza mi posso cercare da solo, porta ad avere un approccio assolutamente negativo verso questi strumenti, che pure fino a pochissimi anni fa erano considerati tra i più moderni e tra i più trasparenti, diciamo, rispetto alla pubblica opinione. Quindi considerate sempre, quando dovete ragionare sui termini dei nuovi linguaggi comunicativi, considerate quanto la tecnica influisce su questo, su quanto la tecnica consente o non consente di alimentare nuovi spazi parlati, nuovi spazi scritti, proprio perché i file e i mondi diventano qualcosa poi di totalmente personale. Ripeto, facciamo una cosa che non c'entra nulla con il ragionamento che studiamo qua, ma che vi spiega bene le cose. Il mondo di Second Life, che di per sé è un videogioco in un certo senso, è diventato poi alla fine una formula di forum o di chat e di community, mettetela come volete, attraverso la quale sono i comportamenti non iscritti a portare le relazioni tra le persone. Ed erano situazioni che fino a 2 anni fa non erano nemmeno esistenti sulla rete, e adesso rappresentano un fenomeno su scala mondiale. Qualcuno vuole essere tra l'avatar su Second Life? Passiamo allora molto, non chiediamo niente. Allora, accontentiamo Riccardo e parliamo di politica. Però non sono molto. Andiamo a vedere i siti dei partiti, per vedere come anche la politica, intesa come strumento, come mezzo aggregativo di consenso, scopre o cerca di scoprire le nuove tecnologie e quindi anche questi nuovi linguaggi. Scegliete voi da dove volete partire. Allora? Il Dio online. Perché no? Ma sì, il Dio online. Lo so. Ok. A voi il commento. Yeah. aggiornato. Io sono qui, sono fatto giusto sottolineare, non sempre l'aggiornamento è una certezza. Anche qui c'è una newsletter alla quale iscriverti, voi sarete già tutti iscritti alla newsletter dello Sbi, quindi chi non è iscritto alla newsletter dello Sbi? Ha uno scrolling molto lungo, però è un sito pulito, è un sito. Ha una particolarità. A parte che ha una televisione, questo. In realtà non ha una televisione, ha dei video scaricati che hanno delle televisioni, ha dei documenti. Non c'è assolutamente, non è una televisione, ma è una parte video. Siccome non vanno mai in onda, è un altro video. Qual è la caratteristica di questa home page rispetto a, una, a quello a cui siamo abituati? Eppure guardate che è sintomatico, eh? Ma quello ci può anche stare, partito avrà dentro tutta la parte che riguarda gli organigrammi, esatto, le strutture, gli appuntamenti. La divisione netta si nota, ma soprattutto si nota, mancherebbe anche questa pubblicità. Si nota il fatto come questo testo sia estremamente lungo. Pensate, da quanto tempo non leggevate un testo così lungo in una homepage? Non siete abituati a leggere. Ed è un testo breve poi di per sé, perché sono semplicemente un appello al voto per le amministrative, eppure rappresenta una cosa che colpisce l'occhio. Comunque è un sito pulito, ha una sua. Ha un suo linguaggio molto semplice ma apprezzabile. Poi in dove andiamo? DSLine. Ovviamente tutti questi siti di partiti, quindi, che dovrebbero guardare, questo dello Sbi lo è, eh? Questo dello Sbi lo è, assolutamente sì. Quello di DS già vi dico che non lo è. Non è, quello dei DS non è un sito accessibile, ad esempio. Stiamo parlando di un partito del centro-sinistra, un partito che deve guardare a tutti nello stesso modo, deve pensare molto anche al suo rapporto con Fiammino, eccetera, e tutto, ed è un partito che ha una versione flash che non può essere accessibile. Comunque, questo invece è abbastanza. Hanno cambiato adesso la prima parte, non sono dubbi, hanno fatto i bravi. E vedete, anche qui si sceglie una costruzione molto, molto, anche qui divisa tra. Ecco, queste parti qua non sono fuori legge. Se uno apre un banner in questo modo, un epilettico gli viene una crisi un secondo dopo. No, non è uno scherzo purtroppo, ma. E quindi questo è un problema, cioè un problema di DS online, non è. E poi soprattutto c'è delle forme di linguaggio italiano, sorprendente che l'ESPA interviene, nemmeno Biscardi in questo modo. Sapete che l'ESPA interviene e assegna, proprio questo che l'ha scritto era. Sorprendente che parli che scriva così, però vedete che anche qui il sito è un sito pubblicitario praticamente, non è un sito di contenuti, è un sito dove vengono messi in una serie di opportunità con addirittura la possibilità di aprire il proprio blog su una piattaforma, su un template che è messo a disposizione dal partito. C'è una newsletter anche qui, vedete che non cambia nulla da un punto di vista di costruzione. Ci troviamo ad avere tutta una serie di elementi che sono simili, come quasi ci trovassimo di fronte a una testata. Ci sono i feed per gli aggiornamenti, ci sono delle interviste, quindi delle notizie, ci sono degli spazi, chiamiamoli pubblicitari, e poi ci sono delle forme interattive come quella della DS Online TV, che è una televisione vera e propria, in questo caso, a differenza di quella. Anche qui è tutto flash, vabbè, non perdo. dove ci sono tutta una serie di servizi che vengono fatti da una redazione vera e propria che cura questo genere di cose. Una curiosità che io avevo questo, non vogliamo vedere, una curiosità carina è che un partito di sinistra che ha sempre tra le sue battaglie quella contro i call center, i lavoratori precari, eccetera, mette la fotografia di una bella hostess sul fondo che risponde al numero verde, per dire come poi alla fine si cade su queste piccole cose dal punto di vista di immagine di un partito, no? Non è che hanno messo un intelletto, ma hanno messo la bella signorina con l'auricolare. E anche questo è significativo di come ci sia poi, di come si sia vittime di una serie di luoghi comuni, anche per chi poi deve lanciare un messaggio positivo, diciamo. Dove andiamo? Forse. Allora, qua anche questo, la costruzione di questo portale, perché è un portale che come vedete tiene, ospita una serie di veri e propri siti. È immediatamente un messaggio politico senza una sorta, è estremamente più diretto rispetto a quello che abbiamo visto prima. I DS online cercano di costruire un mondo che metta, che apra un dialogo. Forza Italia sceglie la linea del dire chi viene da me è dei miei, e quindi io fornisco a queste persone una serie di opportunità, di materiali, di spunti che alimentino lo spirito di appartenenza e quindi diano una serie di motivazioni ulteriori a ciò che si vuole proporre, anche da un punto di vista proprio di immagine, no? La scelta comunque del leader c'è sia in un partito che nell'altro, perché la fotografia di Fassino c'era anche dall'altra parte, ma era vista come una fotografia della notizia. Ovviamente adesso io non vado a vedere certo tutti i giorni il sito dei DS, penso che 5 volte su 10 ci sia una notizia che abbia Fassino e quindi ci sia la foto di Fassino, ma non per scontato ci deve essere sempre Fassino. Al contrario, l'immagine di Berlusconi fa parte della testata, quindi è un'immagine che comunque è sempre in quella posizione, a meno che non si cambi l'intestazione della testata stessa, cosa che su Forza Italia viene fatta ogni tanto, di modificare proprio l'ontologia. Però addirittura c'è la fotografia e poi la prima voce che si apre è quella sul leader. Cioè c'è l'identificazione volutamente forte, vedete, aprendo quella c'è tutte le immagini del presidente Berlusconi con tutta una serie poi di contributi precedenti. Per quello che riguarda la costruzione della prima pagina, addirittura c'è una sorta di sorpresa, perché la colonna di sinistra è le riforme del governo Berlusconi, come se non esistesse un nuovo governo, perché se non si va a vedere in alto che è il 28 maggio 2007 San Lampranto, l'ho descritto qua con tanto del santo, non viene praticamente considerata l'idea che al governo ci sia un'altra coalizione. Questo è ciò che questo governo ha fatto, che il governo Berlusconi ha fatto, e come tale deve essere sempre sotto l'occhio a disposizione per dei confronti. Dopodiché ci sono le notizie da parte di una sorta quasi di telegiornale, eccetera, poi c'è tutta questa serie di siti paralleli che riprendono molto il metodo americano di fare comunicazione politica, cioè quello di dire noi abbiamo una parte istituzionale, però poi abbiamo delle campagne alle quali poi potete liberamente decidere di aderire o meno. Qui vedete che lo scrolling è estremamente lungo, è tutto fatto sulle notizie, mentre invece i siti fissi sono molto più alti. Noi prendiamo la possibilità, questa è la possibilità di mandare dei messaggi a lunghezza di a lunghezza prestabilita, e in questi si mettono quelli che probabilmente vengono considerati quelli più offensivi. Poi ci sono ancora altri siti nei quali si possono mandare delle informazioni, delle notizie contro gli avversari, eccetera eccetera. Però vedete che si tratta di un sito molto movimentista, ed è strano perché stiamo parlando di un partito che si professa estremamente moderato. La versione online però consente di aumentare la quota, diciamo così, rivoluzionaria di questo partito, proprio perché permette di dare una serie di materiali che mettono molto più autonomia a chi le usa. Ad esempio, guardiamo il sito della Lega, troverete che è un sito estremamente più sobrio, per la ragione esattamente opposta. Anche qui c'è una versione flash, che anche questa ovviamente. Questo box non può limitare, anche questa è un'osservazione purtroppo. Siete entrati voi? Come vedete, alla fine è molto più, a parte essere molto più semplice, è estremamente più istituzionale questo sito rispetto agli altri che abbiamo visto prima, forse a quello dello SD, possiamo dire assolutamente abbastanza. Perché? Proprio perché l'elettorato della Lega Nord non è un elettorato tradizionale, cioè è un elettorato molto tradizionalista, composto da persone che hanno un forte rapporto con i mezzi di comunicazione, diciamo, tradizionali, quindi per quello che si è creato un giornale come La Padania, che è un giornale molto concreto e molto battagliero, dai titoli molto forti, molto duri, nei confronti del potere. Nel sito invece vedete che abbiamo quasi un approccio freddo, un approccio esclusivamente didascalico. Si danno delle notizie, si spiega come si pensa. Guardiamo soltanto anche la biografia di Bossi rispetto a quello che avete visto di Berlusconi. Dovrebbe essere probabilmente il contrario. In fondo Bossi dovrebbe dare l'impressione di essere il conducatore delle truppe padane, invece ha un approccio estremamente più istituzionale, più tranquillo. Eppure, se voi ascoltate Tele Padania, leggete La Padania, sentite l'uso di un linguaggio completamente diverso, estremamente duro, cosa che non appare sul sito, ed è una scelta proprio voluta, non è, l'ho trovato in tutto il sito, questo proprio era stato, l'avevamo anche studiato. Non ci sono urla, non ci sono approcci di questo genere. Ma il che la biografia si fermi al 2001. Questo bisognerebbe chiedersi perché. Non è che l'immagine non è l'immagine attuale di Bosco. C'è censura perché a livello di comunicazione non può dare. Insomma, comunque sia, si sceglie una cosa, insomma, il campo dei Berlusconi con i bambini, con i bambini, sì, i figli ormai hanno 7 anni in più. Quindi non è. Certo, è una scelta, per un leader non è mai, non lo si vede mai nel momento più in cui sta male, eccetera, però ha un suo. Ok, altri partiti? Forza Nuova, Forza Nuova, allora, Forza Nuova. Un po' vinto. Vabbè, questo è un questo è un sito volutamente movimentista. Non è molto graficamente, è un po' lascia qualche dubbio. Ma anche molto disabilità. No, è tutto modificato, no, no, prima c'era una. Sì. E prima c'era anche lì una pagina in flash che io potevo fare entrare, sì. Ed era molto più complesso. A me ricordo molto quello che ho per il disordine. Ricorda quello? Di Repubblica. In che senso? Perché cioè io pure sono vado quasi quotidianamente per questo video, però cioè, non ti capisce nulla perché è disordinatissimo, non c'è un ordine, una persona, una notizia, un tecnico, qualcosa, cioè un po' caotico. Infatti ho detto qualche lezione fa, c'è la dire pubblica pure, è molto. Sono molte notizie piena di contenuti, però secondo me è difficile un po' la mia direzione. C'è anche il problema dal punto di vista dei contenuti, sicuramente c'è sempre il problema di che cosa si mette online, poi c'è sempre il problema anche di chi è responsabile di mettere online queste cose. Io non so se ci sono prodi in fondo, il sito ufficiale del movimento, quindi a questo punto il segretario dovrà essere responsabile. Andiamo al sito di un partito di estrema sinistra, tipo Rifondazione. Cosa abbiamo? Cosa abbiamo qui? Non mi ricordo. No, ho trovato il design informatico. Questa è la Rifondazione? Partito Comunista dei Lavoratori, non era stesso. Non era presentato in purtroppo non ha. Molti sbagliati, ma non sufficienti a essere. Non ho dubbi di questo. Allora, qua c'è una versione invece che è accessibile, assolutamente accessibile, e ha una formazione che è similare, a parte la testata molto colorata, è simile alla costruzione, se la prendessimo da qui, è simile alla costruzione di quella dello Zig che abbiamo visto per prima, anche con il centro dei colori, praticamente non ci sono... e qua c'è una cosa molto seria, la parte con i crediti in alto dove c'è il discorso di chi è responsabile, chi lo coordina e chi ne ha curato la e questo dovrebbe diventare una sorta di regola, sarebbe una regola estremamente apprezzabile, il fatto di mettere il disclaimer, di mettere un vero e proprio una vera e propria gerenza, come si usa sui giornali tradizionali. perché viene considerato un vero e proprio giornale, quindi questo, questo viene considerato una testata di fondazione.it, quindi è una cosa molto interessante da questo punto di vista. E poi sulla scelta direi che non ci sono, non c'è nulla da dire, perché c'è la possibilità di aderire a una campagna in vista dell'arrivo del presidente Bush in Italia, e poi ci sono una serie di, vedete che infatti è totalmente accessibile, questi sono i siti che certificano l'accessibilità del sito stesso. Questo è un sito ben fatto, indubbiamente ben fatto. Avete delle osservazioni? È proprio a settimana. Eh? Pochissimo a settimana. È molto serio per un partito movimentista, è molto serio. Non so come sia quello dei comunisti italiani. Sì. Non so come sia. Esattamente. No, non è questo. Non è ovviamente questo. Ma i vari comunisti tra film e film, però non è questo. Non è questo. Vediamo chi dice. Non è nemmeno questo. Dal fatto che la passiamo. Dai, neanche lo trovate prima. Comunisti, trattino.